Bene, allora partiamo da noi robot, cosa vuol dire essere umano? Partiamo da questo titolo, questo nuovo progetto, ce ne parli un po'? Molto volentieri, è la nuova produzione della mia compagnia che è Ardito Desio, all'interno di un progetto più vasto che si chiama Jet Propulsion Theater, che è un progetto che vuole cercare di unire le tematiche scientifiche al teatro vero e proprio, quindi il teatro delle stagioni teatrali per capirci. E Noi Robot va a scandagliare quella che è una idea di un futuro molto prossimo dove noi avremo a che fare con macchine pensanti. E quindi si aprono veramente tutta una serie di spiragli anche interessantissimi, forse per molti versi inquietanti, da un punto di vista anche filosofico, cioè che quando una macchina sarà in grado di provare sentimenti che assomigliano del tutto a quelli umani, quando una macchina sarà in grado di, chi lo sa, forse amare o avere anche addirittura una coscienza, allora questa macchina potrà essere considerata un individuo e che diritti avrà? E noi come ci relazioneremo con essa? Insomma, si aprono tante domande, ecco, e lo spettacolo va un po' a toccare queste tematiche. Quando è partita l'idea, il progetto? Questo progetto lo porto dentro da tanto tempo perché sto un po' seguendo gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Io stesso sono un ex ricercatore di fisica, ho sempre avuto a che fare, insomma, con tematiche legate proprio a quello che è il mondo dei computer, se vogliamo. Quindi non so dire quando ha avuto inizio, però certamente da circa un anno a questa parte ci sto lavorando su attivamente, documentandomi, incontrando scienziati che si occupano appunto di questo, di scienze cognitive e così via. Quindi come tutti i miei spettacoli ha un processo molto lungo di preparazione, quindi almeno un anno certamente. Senti, tornando un attimo indietro, ci parli anche un po' dell'esperienza Ardito Desio? Volentierissimo. La compagnia nasce ormai circa 15 anni fa, all'inizio con l'idea di portare avanti un teatro civile, teatro della contemporaneità, se vogliamo, che racconti storie urgenti, storie importanti, drammaturgia originale. Di solito io stesso scrivo i testi. Attorno al 2011 c'è questa biforcazione dove nasce il progetto Jet Propulsion Theater che ormai da diversi anni è diventato per me il cuore pulsante del progetto che nasce assieme al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento, appunto questa idea della scienza teatro. Ma il teatro civile non è stato abbandonato perché la compagnia ha ancora la sua anima, diciamo così, di narrazione, teatro della contemporaneità che porta avanti grazie a Cristian Di Domenico, che è un mio carissimo amico, nonché collega, e di cui ho curato la regia dell'ultimo spettacolo, mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dall'omonimo bestseller Einaudi, ed è uno spettacolo che tratta invece quello che è il tema della disabilità, la disabilità in famiglia. E così via. Quindi, insomma, la compagnia ha queste due anime portate avanti dal sottoscritto, da Cristian Di Domenico, e insomma, è una continua evoluzione. Torniamo a noi robot, la scelta di Isaac Asimov. Ah, beh, lui è un grande. Io cerco sempre, quando costruisco uno spettacolo, di andare ad ascoltare quello che è stato scritto e detto da qualche persona che io reputo un genio. Ecco, Asimov è uno, per esempio ho lavorato con i testi di Richard Feynman, di Carl Sagan per i miei spettacoli precedenti. Asimov è per me un veramente interessantissimo perché lui ha un po' aperto la strada a quella che è l'idea di robotica, soprattutto non ha mai avuto paura, ecco, dei robot come spesso troppe volte vediamo, li ha accolti, addirittura si è immaginato questi medici per i robot, psicologi dei robot, le sue tre leggi della robotica sono fantastiche, certamente è una semplificazione, ma credo che ancora oggi, 40-50 anni dopo, i suoi testi ci parlano in una maniera potente. Nella messa in scena, rispetto alla pagina scritta da Asimov, su cosa hai puntato? Ma noi siamo partiti dall'uomo bicentenario di Asimov, ma in realtà lo spettacolo va in ben altra direzione. La domanda fondamentale però è sempre quella, cioè cosa vuol dire essere umano? Nell'uomo bicentenario Asimov ci raccontava di questo robot maggiordomo che scopre di essere artista, no? E nel suo essere artista scopre quindi di avere l'anima di un essere umano, però nessuno lo accetta come tale. Ecco, questo è un punto di partenza per noi, ma poi da lì noi siamo andati avanti e quindi, per esempio, oggi è possibile immaginarci di emulare il cervello umano e quindi questa idea che sembrava così fantascientifica di Asimov, di avere dei cervelli che assomigliavano a quelli umani, noi oggi cominciamo ad avere un po' l'idea che possa succedere attraverso queste emulazioni. E quindi, per esempio, che cos'è l'amore nell'epoca delle macchine? Cioè, una relazione amorosa fra una macchina e un essere umano? E non è una domanda così lontana. Abbiamo dei cellulari che quasi quasi ci parlano come se fossero degli esseri umani. Sappiamo, per esempio, che vivono in simbiosi con queste macchine già adesso. Cosa sarà fra 40-50 anni? E 40-50 anni non è così distante, dopo tutto. Senti, in chiusura, ricordiamo l'appuntamento, con Noi Robot in occasione di Scienza in Scena Atto Primo, Festival di Teatro e Scienza di Pacta dei Teatri a Milano dal 18 al 20 di gennaio. Ci lasciamo con i vostri riferimenti web? Sì, volentierissimo. La compagnia è arditodesio.org, il progetto è jetpropulsiontheater.org e poi c'è pacta.org che è il sito del teatro dove noi debutteremo e siamo molto felici di essere qui. Vi ringraziamo. Grazie ad Andrea Brunello, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi, grazie, a prestissimo, a prestissimo.